9 in punto, la versione di Oscar. Ed il gattaccio Oscar vi propone questo inizio di settimana, questo lunedì 9 maggio, San Pacomio, sarete in pochi a festeggiarlo, me lo auguro per voi, ma è un nome bellissimo come tutti, un inizio un po' diverso dal solito, lo sapete, ogni 3-4 mesi il gatto Oscar vi propone una pausa di riflessione, una pausa di introspezione, una pausa comparativa. Non abbiamo oggi all'ordine del giorno temi politici, economici, quindi per coloro che sono come sempre assetati del tribalismo a favore o contro, o di approfondire, come tentiamo di fare noi, oggi è un po' una delusione. L'approfondimento è diverso. Ogni 3-4 mesi vi propongo un musicista italiano che a mio insindacabile e quindi molto criticabile da voi di solito gusto è uno dei musicisti italiani sui quali vale la pena ogni tanto di fermarsi per riflettere. E perché, ve l'ho sempre detto quando ho invitato Ludovico Einaudi, quando ho invitato Renzo Alzolino, io ho i miei gusti particolari, un po' essendo appassionato di musica. A me piace un filone di musica che abitualmente è considerato un po' male, considerato musica tra il New Age e una musica che di solito a molti evoca solo la pubblicità, come se poi ci fosse qualcosa di male. Invece no, io sono convinto che uno dei percorsi musicali del nostro Novecento, quello che abbiamo lasciato alle spalle, più ricco è quello del minimalismo musicale. Perché penso questo? Perché penso che dal punto di vista tecnico questa ripetitività e serialità di microcellule armoniche e ritmiche abbia avuto un po' la rappresentazione che nella filosofia è stato il post scuola di Francoforte, come nella musica il post scuola di Darmstadt, e la ricerca di una musica che riscopre il sentiero del suono, del rumore, ma non per tornare alla musica primitiva, ma per decomporre le forme tradizionali e classiche a cui siamo abituati. Troppi di voi pensano che la musica sia genere, classica, romantica, eccetera. La musica è un continuo divenire e come il minimalismo nelle diverse arti espressive ha significato la fine dell'epoca delle avanguardie alla ricerca di un nuovo percorso, così nella musica il minimalismo, secondo me, nelle sue diverse interpretazioni, per me Andreessen è un grande, per me è un grande Arvo Pärt, per me è stato un grande John Cage, ma insomma è esattamente quello che nella musica avviene nelle altre arti espressive. Per questo vi ho proposto Ludovico Einaudi, e quel giorno abbiamo parlato molto con lui di come è portato alle sue composizioni musicali. Anche in questo caso partiamo da un grande musicista italiano che è con noi, si chiama Roberto Cacciapaglia, è qui in studio e che suonerà per voi. Buongiorno e grazie a Roberto Cacciapaglia. Buongiorno Oscar, buongiorno ai nostri ascoltatori. Ecco, Roberto Cacciapaglia ha un percorso suo personale, diciamo il pianoforte lo usa come sentirete, ma lo usa poi come straordinario mezzo attraverso il quale che cosa si fa? Poi si compone, lui dalla composizione viene da un mix in cui dalla direzione d'orchestra innesta fin da quando era giovane musica elettronica. Sono passati oramai 35-36 anni da quando esce un album Sonanza, che a tutti quelli che la pensano come me apre parecchio la testa. Negli anni ha continuato a proporci delle opere che a me francamente lo fanno riavvicinare a uno dei musicisti post Debussy che è meno conosciuti in Italia. Qual è questo musicista? È un musicista che inizia a comporre delle violente cosmogonie musicali, si chiamava Jean-Claude Eloy, e vedremo, ce ne parlerà Cacciapaglia, come la musica dell'universo e la musica delle cosmogonie è un tema molto presente anche tra i tanti filoni che trattano i dischi e la musica di Cacciapaglia. Io direi che possiamo cominciare direttamente con il primo brano che segue in diretta per voi dallo studio qui al pianoforte. È un brano che si chiama Floating e viene dal disco Quarto Tempo, che oramai sarà di 3-4 anni fa, vero? 2007. Ecco, perfetto. Floating con Cacciapaglia per voi. Ecco, diciamo che solo diamo pochi secondi a Cacciapaglia per spiegarci prima del secondo brano, dovesse dire questo brano come è nato a chi ha appena ascoltato? Questo brano come è nato? Ma come nascono tutti i miei brani? Dal silenzio. Dal silenzio, perché il silenzio è un po' una porta, è un mare calmo è una piattaforma da cui poi, se riesco a raggiungere un livello di profondità abbastanza interessante dentro di me, questo suono che esce succede un po' come quei pescatori di perle che portano fuori delle cose, e allora raggiunge come una freccia chi ascolta e si crea quello che si chiamava una volta comunione, cioè una sintonia tra due esseri, tra chi suona e chi ascolta, che ricorda la musica dei tempi antichi. Nei templi, quando si onorava la musica, le persone si radunavano e allora era un vero e proprio rito. Oggi la musica la usiamo molto così come tappezzeria, come sottofondo, ma in realtà è un'arte suprema che ha ben altre funzioni, soprattutto oggi che frequentiamo molto la superficialità e poco la profondità. Senta, è nato così. Lei ha, quando era agli inizi, per così dire, ho letto che ha partecipato a un'esperienza che è un po' mitica per chi ha in mente certi percorsi musicali, allo studio di fonologia della RAI. No? Sì, ecco, sì, sì. Che è un po' come una specie di piccola Darmstadt italiana applicata al servizio pubblico, che se uno ha idea di poi il servizio pubblico ha potuto fare anche questo. In altri tempi sì, l'ha fatto. Ecco, dovesse dire di quell'esperienza che cosa le è servito di più e qual era la sua singolarità, perché molti non hanno la più pallida idea di che cosa stiamo parlando, ovviamente. Ma si trattava l'elettronica in modo artigianale, cioè con i nastri, si tagliavano i nastri in vari modi, le dissolvenze, cioè oggi si fa tutto col computer, no? Allora invece era questo studio sulle frequenze, sulle onde, per esempio le sinusoidi, le onde quadre, ovviamente per il pubblico, però era veramente straordinaria, era come essere in una sartoria, in una panetteria, e quindi era veramente bello. E vorrei aggiungere questo, siccome ha parlato proprio del... Anzi, ci davamo del tu, penso possiamo continuare. Ci davamo del tu, grazie. Con Pietro Grossi, il CNR a Pisa, che è stato un precursore. Lavoravamo sul computer IBM, che allora sembrava di essere in 2001 nello spazio, con i tecnici col camice bianco, erano delle pareti enormi. Oggi facciamo tutto su un portatile, però sono state esperienze straordinarie. E quella di Pietro Grossi, che era docente di violoncello a Firenze, e appunto ideatore di questo centro del CNR sulla computer music eccetera, è stato un po', diciamo, come Nemo profeta in patria, diciamo che è un'esperienza che non ha trovato epigoni nel nostro paese. È un peccato, perché invece era una ed grossa è un grande cosa. Peccato, perché poi questa ricerca sulle determinanti fisiche del suono, del rumore e della musica, le determinanti fisiche sono, è ancora oggi secondo me un percorso da seguire, e dovrebbe essere proprio fatto in maniera multimediale, perché le nuove tecnologie in teoria consentono un ampliamento assoluto di questo genere di musica, o no? Assolutamente sì, è interessante proprio quello che diceva, che dicevi, fisica nel senso che poi la vibrazione, esatto. No? Cioè io quando suono, scusa, ti dico questo, è molto importante che il collegamento della presenza, del gesto sul suono e il tasto, perché sono tornato da molti anni ormai, diciamo, non l'ho mai abbandonato, ma l'acustica rispetto all'elettronica ha questa cosa, no? Che tu attraverso, proprio imprimi nel suono la vibrazione, questa vibrazione parte, e se tu lo fai con una certa determinazione, l'intenzione arriva a chi ascolta, e questa vibrazione risuona allo stesso modo. Se io mi emoziono in un certo modo, il pubblico riprova la stessa, è un fatto proprio scientifico. Allora, ti direi di passare direttamente all'esecuzione qui dallo studio del secondo brano, in questo caso è sempre dall'album Quarto Tempo del 2007, il titolo del brano è Seconda Navigazione. Ecco, noi alterniamo ai brani che vengono proposti da voi, eseguiti da Roberto Casciapaglia qui in studio, dei brani dell'ultimo album, quello che uscì nel 2010, nel quale vedrete, insomma, la composizione si sviluppa, perché l'ultimo brano, l'ultimo album, voglio dire, quello del 2010, Ten Direction, 10 direzioni, e avviene con la registrazione di una delle più grandi e prestigiose orchestre mondiali, con la Royal Philharmonic Orchestra, e ve ne proponiamo due tracce adesso alla fine della prima parte e più avanti, per darvi un'idea poi di come si sviluppa sviluppa la tecnica compositiva di Roberto Cacciapaglia. E direi, siccome il tempo è tirano, di procedere immediatamente, quindi da Ten Directions, di cui è in corso il tour, quindi per chi fosse interessato io vi richiamo le prossime date, potete sentire dal vivo il 17, adesso siamo a maggio, quindi il 21 maggio lo potete sentire al Palaterme di Riccione, il 4 luglio al Teatro Carignano di Torino, il 12 luglio al Montecatini Opera Festival, e dal brano e dall'album appunto Ten Directions sentiamo End Electric House, e prende nome la faccenda da una cosa che sa chiunque sia andato a vedere la casa museo di Handel a Londra, che sta vicino a Bond Street, e scopre andando lì, se non lo sa prima, se non è un cultore, un patito musicale, che Jimi Hendrix è vissuto in quella casa per alcuni anni senza saperlo. E quindi l'idea di scoprire questa cosa anche a Cacciapaglia, quando c'è andato la prima volta da giovane, ha dato lo spunto per questo brano, lo ripeto, Handel Hendrix House, dall'album Ten Directions. Eccoci qua, sì, è vero, l'avete riconosciuto, sì, c'è sicuramente, certo che un tema era quello dell'adagio andante del Sers di Handel, eccetera, eccetera, famosissimo, così, si chiama Handel, apposta il brano, però poi ne avete sentito gli sviluppi, contro sviluppi, questo è il punto. Molti di voi protestano, dicono, ah, questa musica è morta, viva Rachmaninoff. No, la musica, questa non è musica morta, questa è musica diversa, e il problema è che io rispetto i gusti di tutti, e però i gusti miei sono particolari. Chi dice, ma c'è dentro il Philip Glass? Sì, anche, e ne abbiamo parlato più volte in questo percorso, corso a tappe che stiamo facendo, Glass è uno di quelli minimalisti che infatti non a caso io dico è stato uno strepitoso, dal mio punto di vista, senza che volevi imporre nulla, trascoloratore, trasibridatore di forme musicali. Lì il minimalismo a volte arriva a livelli quasi ossessivi, e del resto per esempio c'è una pianista italiana, la Celletti, che nasce come pianista classica e poi ha preso un percorso ibridante anche lei, che in un brano che si chiama Variations propone addirittura 840 serie di una stessa elementarissima cosa ritmo-armonica. Non pretendo di arrivare a tanto, però ognuno pensa che questi percorsi di ricerca musicale siano importanti, e naturalmente il vostro gusto, diverso dal mio, è altrettanto rispettabile. Ma intanto oggi vi prendete questo Cacciapaglia strepitoso, adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con un brano eseguito da lui in studio per voi, a tra poco. Eccoci tornati qua in studio, siamo con Roberto Cacciapaglia, siamo riusciti, sacrificando un po' il suo parlato, per così dire, nella prima parte della trasmissione, a proporvi due suoi brani che ha eseguito direttamente al piano dallo studio, e un brano invece che è una traccia del suo ultimo album Ten Directions, in quel caso con la Royal Philharmonic Orchestra. È una trilogia quella con questa grande orchestra di brani, di album, oh, stamattina sbaglio sempre tra album e brano, di Roberto Cacciapaglia. E volevo chiedergli, prima di chiedergli di nuovo di suonare per voi, un pochino di spiegare ai nostri ascoltatori qual è la sua concezione della la musica che fa, come la definirebbe, e poi anche qualche considerazione sul fatto, io ho questa impressione che c'è un deserto musicale intorno a noi che deriva dal fatto che l'ABC della musica, la musica è tecnica, la musica è ritmica, armonica, melodica, le tre cose di fondo della musica, scusate, per chi non le ha presenti, sono delle tecniche che vanno spiegate, vanno insegnate. Io sono un po' terrorizzato dal fatto che sta diventando un paese in cui, al di là di un po' di melodia, nella scuola, come postazione di fondo, come impatto culturale del paese, la grande tradizione della musica in Italia si sta perdendo, mentre invece in grandi paesi come la Germania, la Gran Bretagna, la Russia, ragazzini studiano musica, la gente va al concerto con lo spartito in mano. Perché da noi no? Cosa si può fare per questo? Un po' di idee sulla sua musica e su questo di Roberto Cacciapaglia. Ma diciamo che vorrei incominciare dai tempi antichi, antichissimi, nella mitologia. Il suono che abbatteva le mura di Gerico, nel mito di Orfeo, il suono che faceva danzare gli alberi o incantava i delfini, no? Questo perché la musica in effetti è un'arte straordinaria. Prima di tutto è un'arte che lascia totalmente liberi, non esprime concetti, non ci sono storie, non ci sono immagini. Sentiamo dei suoni e ognuno di noi ci mette dentro quello che è, quello che vuole sentire, no? Per cui io lavoro da molto sui poteri del suono, quello che dicevi prima di Handel Hendrix House è stato un percorso che in realtà è cominciato tanti anni fa, quando sono stato a Salisburgo a vedere la casa di Mozart, a Vienna quella di Beethoven, a Puccini, quella, a Torre del Lago quella di Puccini, e poi sono andato da Handel perché durante i concerti di Handel piangeva tutta Londra. Allora, diciamo che far piangere gli inglesi con la musica non è cosa da poco e mi interessava appunto questo potere della musica. Io penso che abbia una funzione straordinaria la musica, che però sta... Devo dire che io sono molto ottimista perché vedo ai concerti, il pubblico su Facebook, oggi la rete è un mezzo meraviglioso, penso che sia l'opera d'arte del secolo assolutamente. Quindi attraverso questo c'è un grandissimo ritorno, anche una voglia di avere dalla musica una funzione che non è soltanto divertimento, intrattenimento, eccetera, tutte queste cose che vanno benissimo, ma in realtà la musica ha ben altro da darci. No? Il percorso che hai fatto in questi decenni, dovessi contestualizzarlo da un punto di vista culturale avendo dei riferimenti europei, come lo sintetizzeresti a chi, ripeto, non è un grande esperto, cioè non è che appena sente Cage ha immediatamente in testa che cosa ha fatto Cage e perché, come lo spiegheresti a chi è a casa? Ma come un percorso di una ricerca di sintesi, ma sintesi anche nel senso proprio della musica, di quello che è. Il mio maestro è stato Bettinelli, che era un post-dodecafonico, no? Quindi dalla scuola di Vienna, io ho conosciuto Stockhausen, Cage, voglio dire, mi sono interessato ovviamente, ho anche fatto una scrittura di questo genere. Poi via via, diciamo, la musica per me è come uno specchio, quindi corrisponde a una ricerca mia personale, e questo specchio mi sta portando a cercare un senso sempre più profondo, dove l'intelletto ha sempre meno spazio e invece l'emozione, diciamo, le profondità, quello che la musica esprime proprio, al di là della... si potrebbe dire una cosa... Una volta c'era lo scorrere del tempo e quindi la conseguenzialità delle avanguardie, una cosa esatto, veniva subito esattamente. Dopo. Oggi non è più così, perché lo scorrere del tempo era un po' simboleggiato dal nastro che girava, no? Dalle cassette, anche dal vinile, no? E quindi c'era questo scorrimento del tempo. Oggi si lavora con l'hard disk, quindi dal tempo si passa allo spazio. Abbiamo esatto. Una tavolozza dove, come diceva Hawking nei buchi neri, si inverte lo spazio-tempo, ci si muove nel tempo e si sta fermi nello spazio. Quindi quello che la musica anche di 5 milioni di anni fa, il suono primordiale, piuttosto che l'ultimo suono americano, poi oggi o australiano, hanno la stessa influenza. Non dipendiamo più da questa questa conseguenzialità prospettica. Questo cambia tutto, quindi, cioè siamo influenzati allo stesso modo da un canto gregoriano o da Jimi Hendrix. Ecco, e io mentre ti prego di andare al piano per il prossimo brano, io vorrei fare riflettere su questo. Chi tende a avere una concezione della musica per conseguenza di tempi è ancora fermo, per così dire, alla diacronia. Anche nella musica, questa cosa che da 50, 60, 70 anni dopo la fine della prima avanguardia del Novecento è quella che porta a percorsi come questo di Roberto Cacciapaglia, avviene esattamente quello che avviene nella fisica. Nella fisica la scoperta che la diacronicità è un'illusione, perché noi possiamo vivere in un universo, in quello post-atomico e post-einsteiniano, in un universo delle stringhe, per esempio, esiste la sincronicità di dimensioni diverse. Nella musica il recupero della spazialità e della musica che prevale sulla temporalità diacronica è esattamente questo. Per questo i percorsi di ricerca del suono, innanzitutto come determinanti fisiche del rumore, è qualcosa da rimettere al centro della ricerca musicale, e per questo i musicisti che io vi sto proponendo partono tutti con diverse matrici, diverse interpretazioni culturali, ma da questo tipo di percorso di ricerca. Molti non lo condividono, però abbiamo anche nel pubblico, io voglio fargli omaggio, chi dice, ho beccato anche però oltre all'omaggio naturalmente col Sers di Handel, c'era anche un doppio omaggio, perché c'era uno a Hendrix che rifaceva Dylan con All Along the Watchtower, quindi abbiamo un pubblico che, come vedi, qualche volta becca anche al volo di queste finezze. Ora Cacciapaglia torna a suonare dal vivo dallo studio per voi, e sempre da Quarto Tempo, il brano Quarto Tempo, dall'album Quarto Tempo, il brano si chiama Atlantico. Thank you. Eccoci tornati in studio e direi di ricominciare con l'ultima esecuzione di un brano dal vivo da parte di Cacciapaglia. Il brano si chiama How Long, è sempre da Quarto Tempo. Ecco, adesso io ho tre domande a Cacciapaglia per condurci fino alla fine. Abbiamo ancora tre minuti, quattro minuti, quindi io taccio e gli faccio tre domande secche. Primo, come si arriva a comporre un'opera? Tu ne hai composte diverse. Che cos'è l'idea dell'opera complessivamente oggi per il tuo percorso di ricerca e al tuo pubblico? Secondo, nei tour che fai tra Italia e estero, che differenze trovi oggi tra i diversi pubblici? Terzo, dovessi lanciare un messaggio al di là di quello che fai con la tua musica, per cosa si può fare per questa parte di cultura su cui sei impegnato oggi, per il paese così come è messo oggi? Lo so, sono tre domande impegnative, però hai tre minuti. Un, due, tre. Ti ringrazio. Ma forse partirei dalla prima, no? Dall'ultima, scusami. Questo, parlando di musica, io proporrei una pacificazione, perché spesso mi sembra questa quasi da Milan Inter, no? Cioè noi facciamo dodecafonia, allora gli altri dicono esatto. Dodecafollia, a volte si chiama, no? Quindi tonale, atonale, io penso che è giusto sperimentare senza limiti, andare oltre. La musica ci insegna che possiamo andare ovunque, no? Cioè, lo spazio infinito che è interiore ed esteriore, quindi l'unione e poi questa pacificazione, questa, voglio dire, in fondo quello che si vuole penso sia la stessa cosa. Vedete che il tribalismo non c'è solo in politica e in economia, anche nella musica, bisogna superarlo. Il tribalismo come tradizione va riscoperta, ma come divisione curva nord curva sud non va bene. Secondo. Anzi, l'integrazione penso che sia una cosa più giusta. Come diciamo, la differenza dei pubblici, ma io penso che il desiderio del pubblico in generale, giovane e meno giovane, voglio dire, vabbè, più giovani si trovano magari di fronte a una cosa diversa, no? Non hanno esperienze magari della musica anni 60, 70, quindi hanno questo desiderio comunque di avere dalla musica un'altra cosa, una cosa più profonda. E questo penso che sia in generale, si può generalizzare. Naturalmente, come dicevamo prima, per esempio io sto facendo dei concerti in Russia, c'è una preparazione diversa. Io spero che la scuola qui di musica e insomma le scuole diano, io penso che sia un appagamento di questo desiderio, perché veramente credo che tutti i ragazzi, i giovani vogliono avvicinarsi alla musica. Certo c'è modo e modo, io penso che sia molto importante riscoprire questa materia, come tante altre, che, voglio dire, adesso non voglio parlare delle applicazioni, mi viene in mente, non c'entra niente, le applicazioni tecniche. No, ne parliamo spesso ed è un esempio che io apprezzo molto questo. Ecco, perché noi stiamo perdendo l'artigianato, esatto, in modo... la manualità, le cose sono dopo. Assolutamente, quindi la musica fa parte di questo, perché in fondo è... insomma, è la globalità, no? Poi se si perde qualcosa sì, è una specie di effetto domino, no? Quindi io sono assolutamente per tante cose che si facevano a scuola e non solo, l'artigianato, cioè la musica è una di queste. Un'opera, io penso che io ho scritto varie opere, balletti, adesso ne facciamo uno proprio al Carignano, dove sarò in luglio, come tu dicevi. Carignano di Torino, la mia città. Sì, sì, con Arché, Matilde De Marchi, che è coreografa. Io penso che la cosa interessante, la vera sfida dell'opera oggi sia che recuperare questa tradizione straordinaria che noi abbiamo, no? E fare una cosa che abbia un equilibrio, cioè che sia godibile, che sia verso il pubblico, che non sia soltanto una ricerca, un'esplorazione, e neanche che, voglio dire, il musical è un'altra cosa interessante, no? Oggi ci troviamo un po' sbilanciati, secondo me, nella musica in generale. Da una parte c'è una musica leggera che sta diventando sempre più leggera, tra virgolette, e dall'altra parte la musica classica, contemporanea, che si perde un po' troppo, a mio avviso, nell'esplorazione, che poi rimangono soltanto un po' fini dei giochi intellettuali, no? Invece l'opera è una cosa che deve essere sociale, come lo è stato Giuseppe Verdi. In Italia gli analfabeti sapevano le opere a memoria, no? Questo non dimentichiamocelo, quindi abbiamo profondamente dentro di noi questa, ed è un valore che secondo me possiamo veramente esportare proprio in modo, tanto per parlare in senso di che merita però, di essere riscoperto. Io continuo a pensare che bisogna che tutti ci diamo da fare per rimettere i fondamenti. Noi veniamo da una generazione, la mia, che insomma si avvicinava alla musica soprattutto attraverso le band, le cose eccetera eccetera, però io ringrazio poi di essermi messo con la testa lì a capire i fondamentali tecnici della musica, perché la difficoltà a capire, a spiegare spesso ai giovani, la composizione non è qualche cosa, al di là del talento strepitoso di chi segna la storia della musica, però per la composizione ci vogliono i fondamentali tecnici, come in ogni cosa ci vuole la manualità di questa cosa pazzesca che è il suono, il rumore, la fisicità di come si ricavano le note, e sono d'accordo su questo. È il pericolo del virtuale, stiamo attenti a non perdere la manualità, perché la memoria, ci sarà le funzioni, chi le funzioni tecnicamente in maniera sintetica fa tutto per noi, le funzioni psicofisiche, cioè noi siamo corpo, voce, mente, e più della musica commerciale insieme, no? Poi questa cosa qua, molti mi chiedono, avrai anche a Levi? No. Poi vi spiegherò perché, perché io su quello proprio non sono d'accordo, so che molti si stanno arrabbiando per questo, però intanto ringraziamo Caciopaglia, a cui abbiamo rovinato la mattinata facendolo venire a studiare in mono da questi studi, me la vergognosa, ci scusiamo con lui, però... Invece sono io che ringrazio te, delle cose che mi hai veramente stimolato. Per me la passione della musica ogni tanto serve a far capire che questo è un paese che ha la grandezza della sua profondità, la musica è stato un pezzo fondamentale della grandezza italiana. Grazie a Caciopaglia, chi la mantiene alta ancora oggi in Italia e nel mondo. Grazie a voi, appuntamento domani, linea al giornale. Grazie, saluto gli ascoltatori. 9 in punto.